profumati dalle stelle alpine, porta i baci sulle cartoline. Uno a te, uno a me, io che lì, olè. Ma sul ponte di Bassano, che strano, che strano, l'hanno vista dar la mano ed un bacin d'amor. Per poter vedere la postina fanno pure il viaggio in carovana e nessun torna in tre. Io che lì, olè. Solo con la luna piena, uno a te, uno a me, io che lì, olè. Uno a te, uno a me, io che lì, olè. Uno a te, uno a me, io che lì, olè.